Nel 1964 lo Zambia vara un ambizioso programma spaziale: arrivare sulla Luna prima degli americani e dei russi. E prima che il sogno svanisca, un astronauta africano sta aspettando il suo momento. C'è una stella d'argento nella notte del mondo, nel silenzio che sento c'è un respiro profondo. Dal mio razzo spaziale vedo solo un confine, una terra promessa oltre le nuvole, una terra promessa oltre le nuvole. Sarei pronto da sempre se l'avessi saputo. Son vestito di niente come un sogno proibito. L'anima corre avanti oltre le nuvole. L'anima corre avanti oltre le nuvole. L'ambizione di volare oltre lo spazio comandato. La tentazione di volare oltre lo spazio conquistato. Più lontano di un lampo, dove andiamo domani? Batteremo sul campo i russi e gli americani. Gravità non conosco che mi possa fermare. Uno spazio promesso oltre le nuvole. Uno spazio promesso. Questa terra in cui vivo, che mi accoglie e respinge, mi riscrivo il destino, mentre un sogno si unisce, una storia diversa sotto le nuvole, per un popolo perso sotto le nuvole. Sogno ancora di volare oltre lo spazio comandato. Lasciate che io possa sognare tutto lo spazio che è stellato.